Euroreportage. Nei campi profughi di Lesbo, dove il piano tra Unione Europea e Turchia fa paura anche ai siriani. Di Raffaella Calandra. I won't go, Adan, yes. No half paper. Al porto di Mitilene, due ragazzini algerini cercano navi per Atene. Non vogliono essere chiusi nel campo profughi di Moria, ci dicono, né tantomeno essere rispediti in Turchia per effetto del piano tra Bruxelles e Ankara. La Germania è la loro destinazione, ma neppure sanno che tra Grecia e Macedonia non si passa più e che ora nel campo di Idomeni c'è pure allarme epidemie. Loro non hanno neanche provato a chiedere asilo e ora hanno ancora più paura degli altri 4.130 migranti presenti tuttora sull'isola, sospesi tra il sogno di raggiungere il nord e l'incubo di essere riportati al punto di partenza. Tra i container del campo di Karatepe o dietro il recinto del Moria Camp, il gesto di Papa Francesco di portare a Roma 12 siriani, tre famiglie, ha riacceso le speranze. Ma i miracoli, sospira una giovane donna, non si ripetono due volte. Così anche chi è scappato da una guerra aspetta ora con rassegnazione e poche informazioni l'iter della domanda d'asilo presentata dopo il 20 marzo, data di entrata in vigore dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, che ha già fatto calare dell'80%, stima Frontex, gli sbarchi nelle isole elleniche. Dopo le prime espulsioni il 4 aprile, quando 202 migranti da Lesbo e Chios sono stati portati a Dichili dall'altra parte del mare, dopo settimane di stop ora cominciano ad arrivare le prime risposte e sono negative anche per dei siriani. Anche loro infatti possono essere riportati fuori dai confini dell'Unione se le verifiche identificano la Turchia come un paese terzo sicuro. Ma a questa prospettiva gli stranieri presenti a Lesbo non si rassegnano. We are escaping from the war. And as you know, I am a doctor. Noi stiamo scappando dalla guerra. Io sono un dottore ortopedico. Ho visto in 3 anni 3.500 pazienti per colpa della guerra. Capite che tra noi non tutti creiamo problemi, non tutti siamo cattivi. Hanno espulso dei pakistani e degli afghani, ma loro non scappano da paesi in guerra come noi. È diverso. Io mi aspetto che ora i politici ascoltino le parole del Papa, aprano la strada per siriani e iracheni e ci lasciano vivere in pace. We think that he will say that open the way for Iraqis and Syrians and let them live in the peace area. All'ingresso del campo di Karatepe, Hamed, 28 anni, iracheno, continua a ripetere che i siriani e gli iracheni scappano dalle guerre, che non sono come gli altri. È una nuvola di fumo di un improvvisato venditore di pollo arrosto. Parte di quell'economia fiorita intorno all'accoglienza dei profughi quasi lo avvolge, mentre ci racconta la sua storia di ortopedico diretto ad Annova per raggiungere familiari della moglie. Anche lui ha fatto domanda d'asilo, ma sa perfettamente che la data d'arrivo, dopo il 20 marzo, è uno spartiacque sulla rotta balcanica. L'avvocato Immanuel Chatzikalkias sta provando a spiegarlo ad un gruppo di pakistani chiusi nel campo di Moria che assiste. Now they are waiting because they have made already application for asylum. They are waiting for the first step, that is the interview. Loro stanno aspettando perché hanno fatto domanda di asilo, quindi aspettando il primo passaggio, che è l'intervista. Se non passano, possono fare appello e poi, in caso di nuova bocciatura, un altro appello. Sono 3 i passaggi in base alla legge greca approvata dal Parlamento. La maggior parte delle persone rinchiuse qui hanno chiesto asilo e non possono essere riportati in Turchia prima che la loro domanda non venga esaminata. La settimana scorsa ho saputo che ci sono colloqui già programmati fino alla fine di maggio, ma ora, in base alla nuova legge, ci dovrebbe essere un canale più veloce e tutto dovrebbe durare una settimana. It will provide a fast procedure. That means in 1 week everything will be finished. Tra i primi gruppi riportati in Turchia anche dei migranti che avevano chiesto di ritornare indietro di loro iniziativa, ma questa sembra essere davvero un'eccezione perché nessuno vuole tornare al punto di partenza, anche per il timore a quanto pare poggiato non solo su paure di essere poi riportati proprio alla casella iniziale, come in un paradossale gioco dell'oca. Lo temono soprattutto pakistani e afghani, eppure la Turchia ha ottenuto 6 miliardi con l'accordo con l'Unione Europea per accogliere i profughi rimandati indietro e far tornare invece in Europa altrettanti migranti con diritto d'asilo. Un accordo complesso da mettere in pratica perché vanno verificate tutte le singole storie, ma ora aumentano anche i funzionari europei mandati da Bruxelles in supporto della Grecia, ci dice Jean-Pierre Chembry dello European Asylum Support Office. Stiamo facendo nell'isola processo dell'admissibilità a causa dell'accordo con la Turchia. Le persone che sono partiti di già, queste erano persone che non hanno fatto una richiesta d'asilo. Quando ci potranno essere allora delle altre espulsioni? Il processo prende circa 2 settimane. Adesso siamo nel processo di fare questi interview. Ieri di già dato i primi decisioni, adesso ci sono 5 giorni dove la persona può fare un ricorso. E considerando l'alto numero di persone che ci sono e praticamente ormai tutti hanno fatto domanda d'asilo, sarà un processo molto lento. Nel frattempo restano fermi qui nei vari campi? Siamo qua oggi, in questo campo solo, siamo 60 persone. No, l'obiettivo qua non è solo di fare questo processo presto, ma anche fare questo processo nel modo corretto. Per questo siamo qua, per assicurarci che queste persone sono trattate in un modo individualmente. Dall'accordo dovrebbero essere esclusi i bambini non accompagnati, tantissimi bimbi soli arrivati in Europa dopo viaggi di mesi a volte, e tanti ce ne sono anche a Lesbo, chiusi nel campo di Moria. 3/4 di loro non hanno un posto dove andare, denuncia Save the Children, mentre chi è arrivato con i genitori seguirà il destino degli adulti, anche in caso di respingimento, spiega Michele Prosperi. Sono ragazzini adolescenti, anche molto giovani, che hanno affrontato la fuga dai loro paesi di origine da soli. Qui in questo momento, all'interno del centro di Moria, sono chiusi dentro questi due spazi, sono circa 200. In questo momento nel campo di Moria ci sono circa 2.900 persone. La maggior parte dei bambini sono sotto i 10 anni. Sono bambini che hanno vissuto delle esperienze terribili, la maggior parte sono fuggiti dal conflitto in Siria, dalle città assediate, sono detenuti dentro questo centro, molti di loro si stanno ammalando. Sono molto spaventati, basta pensare che quando l'elicottero della polizia volteggiava si aggrappavano alle loro madri, perché per loro gli aerei e gli elicotteri sono quelli che bombardano le case. Che cosa succederà ai bambini non accompagnati, considerando adesso il piano tra Europa e Turchia? Non dovrebbero essere sottoposti agli effetti dell'accordo, mentre invece i bambini piccoli seguono il destino degli adulti. Sembra quasi di toccarla la Turchia, da qui, da Lesbo. Tanto appare vicina, soprattutto dalla costa settentrionale, dove ci sono stati mesi in cui quel braccio di mare brulicava di gommoni più che di pesci, barchette di legno e ogni genere di zattera carica di persone. Eppure a centinaia sono morti in questo Egeo. In realtà ora, dopo l'entrata in vigore del piano, ci sono stati per la prima volta giorni senza neanche uno sbarco. E nel centro di Mitilene, il capoluogo dell'isola, potresti quasi non accorgerti dell'emergenza migranti, perché il 4.000 tuttora presenti restano all'interno dei campi, distanti qualche chilometro, e dal recinto del contestato campo di Moria o davanti alla sbarra di Karatepe neanche si vede il mare. Un altro mondo rispetto alle stradine gioiose del centro dell'isola, dove Saffo componeva le sue odi all'amore e Alceo paragonava Lesbo ad una nave in tempesta. Il sole cocente dice che l'estate è alle porte con i suoi turisti, ma c'è un'altra emergenza che l'isola ora deve fronteggiare, ed è la perdita delle agevolazioni fiscali a partire da giugno in base alle richieste della Troica ad Atene nel momento più cupo della crisi greca. Una prospettiva che spaventa gli abitanti, e anche per questo il sindaco di Mitilene è stato a Bruxelles e i commercianti, guidati da Evangelios Myrsinias, presidente della Camera di Commercio, chiedono una correzione. Qui a Lesbo, come in tutte le isole, viviamo di turismo, purtroppo già pesantemente colpito dalla crisi dei migranti. Abbiamo avuto molte cancellazioni per il 2016, e se prima avevamo 27-30 voli a settimana d'estate, ora ne aspettiamo solo 13 o 14. Per cui, in un momento di grande crisi economica per tutta la Grecia, noi stiamo affrontando un'ulteriore crisi. Per questo andiamo a Bruxelles a chiedere sostegno, non possiamo fare tutto da soli. Per di più, da giugno la situazione rischia di essere ancora peggiore, perché la Troica ha fortemente voluto che noi perdessimo le nostre agevolazioni fiscali in quanto isole, così l'IVA salirà e con essa i costi, riducendo la competitività. Una prospettiva che sta gettando nel panico gli abitanti di Lesbo, che nonostante tutto hanno mostrato generosità verso i migranti. Noi vogliamo che resti l'attuale legge della 22 e crediamo che il governo e la Troica ce lo debbano. Ancora una volta dunque l'Europa si ritrova qui, in Grecia, laddove la stessa parola Europa è stata concepita per mettere alla prova il suo destino. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.